Non passerà probabilmente alla storia, né avrà risultati particolarmente eclatanti, la manifestazione romana di domenica scorsa contro la politica scolastica del nuovo governo, anche se è riuscita a portare in piazza oltre 60.000 tra insegnanti e studenti in un periodo dell'anno in cui gli uni e gli altri notoriamente hanno una quantità di cose più urgenti da fare. La politica scolastica ha le sue leggi, tra di esse una delle più rigide è quella per cui le uniche iniziative, come dire dal basso, che hanno una qualche probabilità di influenzare le tetragone autorità che sovrintendono al destino delle nostre scuole sono quelle che si svolgono nel primo quadrimestre, diciamo al massimo prima di Carnevale, quando la paura di perdere, tra virgolette naturalmente, l'anno scolastico può creare qualche preoccupazione nella gran massa degli utenti, soprattutto a livello delle famiglie. A fine anno i giochi sono fatti. Una volta, tanto tempo fa, gli insegnanti avevano a disposizione il buon vecchio strumento del blocco degli scrutini, ma era una procedura forse un po' troppo efficace per poter figurare tra gli strumenti di lotta, come dire, leciti. Già i governi della Prima Repubblica, con entusiastico assenso dei sindacati, avevano provveduto a levarla di mezzo. Gli organizzatori dell'iniziativa di domenica scorsa avranno avuto i loro buoni motivi, suppongo, tra cui probabilmente era preminente e affatto lodevole quello di segnalare alla controparte che non tutti nella scuola pubblica sono disposti a lasciarsi retrocedere al servizio sociale di serie Z ad uso degli indigenti e in nome delle maggior fortune imprenditoriali dei gesuiti, dei barnabiti e d'affini. Ma è ovvio che una manifestazione a fine maggio e di domenica per di più, per quanto affollata, sia destinata a fare meno rumore del classico petalo di rosa che cade nel Grand Canyon del Colorado. Tuttavia merita di essere ricordato anche a una settimana di distanza il commento che in merito ha espresso il ministro della pubblica istruzione, tale onorevole Francesco D'Onofrio, in una intervista all'Informazione, ripresa anche al giornale radio della terza rete RAI. Se la manifestazione intende ribadire la contrarietà assoluta, ideologica e pregiudiziale a qualunque tipo di parità tra scuola statale e non statale, ha dichiarato l'onorevole ministro, dopo aver assicurato bontà sua che né lui né il governo intendono smantellare la scuola pubblica, vuol dire, ha detto, che si vuol conservare il sistema. In questo senso trattasi di una manifestazione di conservatori. È una bella dichiarazione, eh? Innanzitutto perché in un certo senso constata l'ovvio. Non c'è dubbio che i manifestanti volessero effettivamente conservare la non parità tra scuola pubblica e scuola privata e presumibilmente l'articolo della Costituzione che la garantisce. Si erano convocati proprio a tale scopo, l'avevano gridato ben forte in tutte le sedi che erano riusciti a raggiungere e d'altronde, alla volontà di conservare un valore che si considera giusto, nessuno dovrebbe avere nulla da obiettare. È una cosa che facciamo tutti, ministri compresi, e sono pochissimi al mondo coloro per cui in questo povero globo sublunare va tutto assolutamente bene e non desiderano quindi cambiare niente, e come sono piuttosto rari quelli secondo cui non va bene proprio niente e tutto va senza indugi cambiato. Quella tra conservatori e progressisti è una contrapposizione relativa, come quella tra destra e sinistra. Dipende dal punto di vista, nel senso che tutti, in senso proprio figurato, siamo a destra di qualcosa e a sinistra di qualcos'altro, e tutti desideriamo conservare alcunché e alcunché d'altro vorremmo innovare. Io mi considero piuttosto progressista, qualsiasi cosa sull'idea di progresso abbia scritto quel capo meno di Christopher Lash, ma ai miei diritti politici e civili, alla mia libertà di coscienza sono alquanto affezionato, sono disposto a fare un discreto casino per conservarli, e altrettanto suppongo di voi. Non per questo sono disposto a definirmi conservatore, né credo che lo siate voi, perché come la contrapposizione da destra e sinistra, anche quella tra conservatori e progressisti col tempo ha assunto, accanto all'originario significato relativo, anche un significato denotativo più o meno assoluto. È di destra che fa riferimento nel complesso a un certo tipo di valori, di sinistra chi ha un altro. Non starò qui a definire i due campi, tanto tra noi ci capiamo. Comunque vi ricorderete che se ne è occupato tra gli altri l'amico Walter qualche settimana fa, e comunque sappiamo tutti che è progressista che si schiera dalla parte di chi storicamente quei valori vorrebbe applicare nella società, ed è conservatore chi non ci pensa nemmeno. Non per niente nella tradizione politica europea esistono dei partiti che si autodefiniscono conservatori, anche se qualcosina quando giungono al potere di solito innovano, per esempio abrogando le conquiste dei loro avversari. Giratela come volete, ma quando si giunge dunque da che parte siamo, sono schierati, lo sanno tutti. Diciamo che gli ultimi due secoli di conflitti sociali nella loro globalità fungono da punto di riferimento complessivo. Il vecchio Marx, che aveva avuto la sua fissazione in tema di patate e sui loro effetti sul sistema linfatico, ma era un teorico più acuto di quanto oggi sia di moda ammettere, intendeva qualcosa del genere quando affermava, con termini peraltro discutibili, ma quando affermava che il comunismo è il movimento reale che cambia lo stato di cose presenti. E allora, l'onorevole D'Onofrio, che è senz'altro un uomo di destra e fa parte senza ombra di dubbio di un gabinetto conservatore, può divertirsi a definire conservatori i suoi avversari, col semplice espediente di commettere una scorrettezza semantica, come dire, dare a un aggettivo preso in senso relativo un senso assoluto che in quel contesto non gli compete. E siccome per una quantità di motivi che non staremo qui a sciaverare in Italia, in italiano, l'aggettivo conservatore in senso assoluto ha finito per assumere una valenza negativa, l'astuto democristiano, o cristiano democratico come adesso si fanno chiamare, ottiene il risultato aggiuntivo di scaricare su degli altri una valenza che, se fosse conseguente alle posizioni che ha assunto, si dovrebbe assumere lui, e che evidentemente non vuole assumersi. È un'operazione, voi dite, un pochino scorretta, un po' sleale. Beh, che cosa d'altro potremmo aspettarsi da un vecchio transfugo andreotiano riciclato tra i nuovi padroni? Per la precisione, la sua mossa appartiene al novero di quelle che gli studiosi di retorica argomentativa chiamano, con un termine squisitamente tecnico, delle puttanate, senza volere, né io né loro, mancare di rispetto a quelle povere creature che battono i marciapiedi e che hanno diritto, loro, a un minimo di dignità.